I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte, ciao a tutti. Siamo in collegamento con Marinella Correggia, che salutiamo e ringraziamo. Ciao. Ciao, per ciao. Essere qui con noi. Grazie a voi. Perché oggi è la ricorrenza di una data che riteniamo molto importante ricordare, anche proprio in funzione di quello che sta accadendo nel panorama internazionale, cioè ci riferiamo al colpo di Stato militare in Cile dell'11 settembre del 73, che chiaramente spero che tutti conoscano e che tutti e tutte noi conosciamo, messo in atto dagli USA contro la via cilena al socialismo, e che ha portato all'assassinio di Salvatore Allende, alla feroce dittatura del generale Pinochet. Però a noi interessava in particolare ricordare che dopo il colpo di Stato in Cile, Pinochet ha sperimentato e applicato su indicazioni statunitensi per la prima volta in quel paese l'ideologia e i principi neoliberisti dei Chicago Boys, no? Con effetti devastanti e ripercussioni anche qui da noi e comunque in politica internazionale. Quindi vorremmo proprio chiederti se si possono fare dei paragoni tra quello che è successo in Cile allora e quello che sta succedendo in Venezuela adesso, anche perché tu hai scritto un libro un paio d'anni fa, vero? Nel 2015. Sì, sull'operato internazionale del presidente Chavez. Esatto. E allora ti vorremmo proprio chiedere se pensi che si possano fare appunto dei paragoni, dei paralleli tra quello che è successo in Cile e quello che sta succedendo in Venezuela adesso. Ah sì, certamente, perché si tratta di due guerre economiche che sono state condotte contro paesi che volevano, che si sono avviati da un'altra parte rispetto a quanto richiesto dal potere dominante, dall'ordine costituito. Vorrei qui ricordarti, Elisabetta, che tu in una lettera, un fiore rosso, scrivesti questo: è insita nella natura capitalistica e condizione indispensabile per la sua sopravvivenza ed espansione l'annullamento di ogni diversa forma economica. Parlavi appunto di quello che, delle analisi di Rosa. Sì, ecco, sì, è vero. I paesi, te lo ricorderai, certo. I paesi dissidenti che non solo cercano al loro interno una via diversa appunto dal neoliberismo, ma che addirittura si permettono a livello internazionale di operare concretamente contro le guerre, di aggressione, contro l'imperialismo, sono nel mirino. E il caso del Venezuela è emblematico, in effetti i venezuelani citano spesso e con un certo spavento gli accadimenti in Cile. Eh sì, evidentemente no, ma sono una ferita aperta, non soltanto, sono una ferita per noi e un monito che è stato fatto da parte di tutta l'area americana, no? Cioè praticamente statunitense. Guai a chi si osa staccare, soprattutto per quanto riguarda poi l'America Latina. Per fortuna i tempi sono un po' cambiati, anzi sono tanto cambiati, e anche se poi negli ultimissimi anni vari paesi latinoamericani sono tornati nell'alveo della destra o centrodestra statunitense, però non è non completamente, e questo bisogna dire l'operato di Chavez da quando fu eletto a quando morì fu fondamentale nel creare davvero una non solo delle coalizioni alternative, in particolare l'ALBA, la coalizione d'alleanza, certo, che era più rivoluzionaria, ma anche altre coalizioni regionali e una diplomazia internazionale che creò quasi una comunità di affetti, se pensiamo a quello che successe alla morte di Chavez, no? Spiccavano i presidenti non della NATO e non del Golfo, certo, è vero, del resto del mondo, ecco. Sì, sì, sì. E questo probabilmente protegge il Venezuela, tant'è che appunto ci sono state varie levate di scudi, come non potevano esserci al tempo di Allende, contro l'ultima minaccia di Trump. Gli stessi paesi che sono tornati appunto verso destra, Argentina, Brasile col colpo di Stato e altri, davanti alla minaccia di Trump hanno detto no, questo no. Quindi, certo, sì, hanno puntato i piedi, è vero. Sì, un po' sì, infatti. E quindi questa è un po' la differenza, ma appunto l'11 settembre del Cile non va mai dimenticato. Invece se tu dici 11 settembre a 100 persone, 99 ti diranno le Torri Gemelle. Esatto. Il colpo di Stato di Pinochet, dei golpisti contro Allende. Potenza della propaganda occidentale questa, tant'è vero che ha una capacità di stravolgere gli avvenimenti, di dare importanza a quelli che sono importanti per loro, ma non per il resto dell'umanità, e poi a mandare in giro notizie false e tendenziose. Tant'è vero che proprio a proposito del Venezuela, mi stavi parlando di questo rapporto diffuso dall'ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU, quello che sta a Ginevra, tanto per diffuso da poco quest'agosto, che che ha provocato una reazione da parte del governo venezuelano. Allora, questo Alto Commissariato per i diritti umani a Ginevra è abbastanza ingenato, nel senso che da lì nacque nel 2011 l'espulsione della Libia dal Consiglio per i diritti umani, certo, i membri di turno, e fu veramente il primo passo, e poi sappiamo quello che successe alla Libia. E da anni l'Alto Commissariato per i diritti umani, che dovrebbe esprimere i paesi dell'ONU, ma in realtà è ostaggio delle potenze NATO e in parte anche del Golfo, visto che appunto non possiamo mai separarli. Sì. E questo Alto Commissariato ha nominato una commissione che da anni sulla Siria fa un lavoro di cosiddetta inchiesta, ma assolutamente basandosi su fonti di parte. E allora sul Venezuela è successa esattamente la stessa cosa. Tra l'altro ricordo che appunto a livello di Ginevra il Venezuela si è sempre opposto, con pochi altri paesi valorosi, a questi rapporti della commissione d'inchiesta sulla Siria. Questa volta è turno del Venezuela, e quindi l'Alto Commissariato ha nominato degli esperti, nominato per conto proprio, senza chiedere niente a nessuno, e questi esperti hanno telefonato a delle persone, hanno telefonato a delle fonti, cosiddetti testimoni delle violenze in Venezuela, parenti delle vittime e tutto quanto, e misteriosamente, anche se dalle immagini che sono circolate anche su internet si vede che l'opposizione ha fatto macelli, compreso appunto drammatici. Sì. Esatto, condannare al rogo delle persone, cioè il crimine più efferato, sono stati compiuti. Nonostante questo, la brava commissione di esperti di Ginevra ha detto che il governo venezuelano si è reso responsabile di queste violenze, praticamente rovesciando assolutamente. Rovesciando, sì, sul governo venezuelano la colpa, cioè non la colpa, la responsabilità proprio di questi. La causa addirittura, essere la causa addirittura. La causa, sì. Ma sai, da questo punto di vista, niente di nuovo sotto il sole, come se si ripetesse ogni volta un copione, per cui viene preso, come dicevi tu prima, di mira un paese in quel momento asimmetrico, e vengono ripetuti gli stessi schemi, gli stessi meccanismi, per cui ormai l'opinione pubblica dovrebbe essere, se non altro, vaccinata. Invece non è così, hanno un meccanismo per cui riescono a far passare delle cose ribaltandone completamente il senso e le cause, gli effetti, gli obiettivi. Però questo non è solo responsabilità dei media, perché spesso i media si trincerano dietro fonti che sembrano il Vangelo, no? Tipo le commissioni dell'ONU, e non lo sanno. Ma no, no, certo. Le commissioni dell'ONU a Ginevra sono manipolate, non è che sono espressioni di tutti i paesi delle Nazioni Unite. Io direi addirittura che più che manipolate sono proprio espressione di un certo tipo di interessi. Poi ci sono dei paesi che magari non vorrebbero essere coinvolti, però tirati dentro in questo meccanismo non riescono neanche a gestire nulla. Sono proprio queste commissioni sono proprio espressione di un potere preciso, per cui non sono neanche modificabili, o comunque non si può neanche pensare di dire riconduciamole sulla retta via, ecco. Sì, no, infatti è così. No, e poi noi abbiamo letto un articolo molto interessante che hai tradotto tu, l'abbiamo letto qualche giorno fa, sulle similitudini, sulle modalità con cui è stata destabilizzata l'Ucraina e quello che sta accadendo in Venezuela, e l'abbiamo trovato estremamente illuminante, e quindi se ce ne vuoi parlare un attimo ci farebbe molto piacere. Ecco, è un articolo che semplicemente spiega, fa dei paralleli. Allora, quello che successe a Maidan, il tipo di personaggi, che cosa dice il personaggio, queste delle proteste cosiddette genuine contro Yanukovych, eccetera, eccetera, e invece è quello che è successo in Venezuela, e mostra tante affinità. Allora, ci sono sempre i musicisti, in genere col volto coperto, guarda caso, certo, però bravi, rivoluzionari, sinceri e genuini contro il dittatore di turno, ci sono le ragazze di bell'aspetto che in perfetto inglese dicono I am from Kiev oppure I am from Caracas, ci sono le persone che allargano le braccia e sembra che affrontino i carri armati stile Tiananmen, e, però non è proprio così, non funziona proprio in questo modo, è tutta una rivisitazione di consigli che partono da un libro effettivamente molto interessante che dovremmo usare per resistere contro l'imperialismo, e invece lo usano gli altri, che è questo trattato di Gene Sharp, un filosofo e politologo statunitense, che ha scritto un trattato, vabbè, come si affronta una dittatura, ma quello che è interessante è l'ultima parte, sono gli allegati, e in questi allegati c'è un elenco di 195 mosse di vario tipo che si possono fare appunto per sconfiggere una dittatura, e tra queste le manifestazioni di piazza in cui appunto si mostrano le brave persone, musicisti e ragazzi eccetera eccetera, che protestano, sono uno degli strumenti più importanti, e sono state usate in effetti in varie rivoluzioni colorate, certo, questo tipo di sceneggiatura, diciamo. E il diciamo che dopo la sconfitta in Vietnam, gli Stati Uniti e comunque diciamo il mondo anglosassone ha preso le misure e ha messo in atto tutta una serie di reti che sono fatte da ONG, da associazioni, da centri culturali, da soggettività famose, no? È un meccanismo che poi supporta tutte queste rivoluzioni colorate, anzi le comincia sul posto direttamente. Eh sì, è quello che io chiamo il circolo vizioso dei guerrafondai e apparentati, no? Perché appunto hai vari attori non hai solo i media e i governi coinvolti, ma hai appunto delle commissioni di inchiesta, le ONG e poi gli attori locali, che possono essere dei terroristi, i quali però vengono sempre fatti passare per bravi rivoluzionari, sinceri, stile appunto che dovremmo andare ad aiutare con le brigate internazionali come si fece in Spagna contro il franchismo. Certo. E in questo circolo vizioso c'è appunto un rimando continuo che legittima le varie componenti di questo circolo vizioso, no? Perché se Al Jazeera dicesse i nostri giornalisti dicono, magari uno non ci crede, no? E invece se dice no, è un attivista sul posto, il bravo giornalista, sì, bravo attivista, il bravo medico, eccetera, eccetera, che dice questo, la cosa funziona meglio. Addirittura in Libia, dato che è una cosa che tocca a noi direttamente, è stato fatto appunto per destabilizzare, tra l'altro, tra le tante cose, anche l'uso della violenza di genere molto forte, per cui sono state propagandate questi stupri, no, famosi. Sì. Cui appunto poi si è dovuto ammettere che non c'era traccia, ma no, troppo tardi. Ma poi anche... sì, poi sai, la notizia, il problema, cioè il grande vantaggio di questo tipo di meccanismo è che poi la stessa smentita della notizia è un modo per far rimbalzare ancora la notizia. È un meccanismo. Sì, perché poi è difficilissimo che passi la smentita, no? Passa l'accusa. Scusami Elisabetta, perché ho controllato sulle mie email. Sì. Io, a proposito appunto di questo rapporto contro il Venezuela, il 21 agosto ho scritto un'email come giornalista e ho scritto un'email a questa commissione a Ginevra, a Tal Ravina Shamdadani, che è una delle appunto del press office lì, per chiedere informazioni, per chiedere ma come mai, chi avete intervistato di questi 135 intervistati che appunto dicono che in Venezuela è successo questo e quello, ci potete dire dove sono, chi sono e tutto quanto, e come mai non tenete conto appunto delle violenze stile Ku Klux Klan che risultano evidenti anche da video e di cui non avete parlato, appunto le persone bruciate vive e tutto quanto. Bene, non ho controllato ancora adesso, non ho mai avuto risposta, anzi adesso mi viene in mente che rimando l'email. Certo, ma dubito, dubito che l'avrai. No, io dico che se fossero 50 i giornalisti che mandano questi messaggi, a qualcosa potrebbe servire, se non altro sarebbe una rottura di scatole per questi organismi, no? Certo. Al minimo devono rendere conto, perché hanno un ufficio stampa e in qualche modo devono giustificare la sua presenza. Senti, io ti volevo chiedere in parole poverissime una cosa che a noi farebbe piacere sentire da te, perché sei diciamo molto lucida nelle analisi. Secondo te, in parole poverissime, le caratteristiche principali di quello che può essere definito l'esperimento politico di Chavez? È difficile riassumerlo in una in poche parole, perché da un lato sul livello a livello interno c'è lo sforzo di costruire un'economia altra. In genere non si sa, ma Chavez aveva puntato tantissimo sulle comunas, cioè sulle unità di base, certo, che dovevano essere anche delle unità produttive. Poi lo sforzo è stato difficile perché 100 anni di mentalità anche estrattivista, in Venezuela si estrae il petrolio da più di 100 anni, hanno lasciato gli effetti anche nella popolazione, e solo una parte della popolazione ha seguito proprio operativamente con tutti questi stimoli che il presidente Chavez e il governo davano. Però c'era questo sforzo, addirittura crearono un ministero per l'ecosocialismo, ecosocialismo inteso appunto nel senso di giusta sostenibilità di un modello produttivo e di consumo che non sfrutta né le persone né la natura, e dovrebbe essere il futuro del mondo, tra l'altro. Certo. Tutto questo non si sa, appunto si si ignora completamente, si ignorano questi tentativi, anche se forse non siamo stati abbastanza capaci di comunicare. Io ho alcuni contatti con delle persone che sono coinvolte in progetti, per esempio di gruppi d'acquisto, produzione per diretta al consumo, e sono cose che non si sanno, ma sono esperienze molto interessanti che tra l'altro hanno aiutato il Venezuela a non morire di fame durante questa guerra economica. Ciò non toglie che appunto ci sia ancora una grande dipendenza dal petrolio e molto va fatto, però ad esempio sta circolando un documento di alcuni amici, appunto agroecologi e altri del Venezuela, che si chiama appunto Per l'ecosocialismo di Chavez. È qualcosa di molto interessante, chiedono anche un'adesione, un appoggio, in modo da avere più forza per affermare queste idee all'interno. Certo. E poi, che dire, la politica internazionale del Venezuela è stata semplicemente luminosa a partire dal 99, quando Chavez già si era opposto alla guerra del Kosovo, cioè proprio certo. All'inizio della sua, e poi continuò e non era semplicemente una opposizione così, due parole, no, un comunicato stampa, ma si impegnò in tanti modi e molto coraggiosamente, senza temere accuse. Pensiamo all'azione negoziale che provarono i paesi dell'Alba rispetto alla Libia, e che invano il presidente, cioè Fidel Castro, l'ex presidente, chiese alla sinistra del mondo di appoggiare. Fu appoggiata solo dalla sinistra latinoamericana, ma la sinistra europea, nelle sue varie accezioni, ignorò completamente la proposta di Chavez. E poi anche sulla Siria, insomma, una politica estera davvero antiimperialista, per la pace, per il diritto di tutti alla pace, che si coniuga appunto con lo sforzo all'interno di arrivare a un'altra economia. Certo, è una cosa che mi colpisce tanto e con cui mi piacerebbe chiudere la nostra chiacchierata, perché forse è un messaggio che potremmo lasciare proprio alla nostra sinistra. Una cosa che mi colpisce è che ogni volta che vengono messi in atto degli esperimenti per uscire da questa società, è chiaro che quando uno mette in atto degli esperimenti per uscire da una società, sono degli esperimenti, delle prove fatte con le unghie, con i denti, fatte in un contesto che porta avanti tutt'altro, in un assedio forte, totale, violento, eccetera. Beh, c'è una sinistra che fa parte anche, cioè che attraversa anche parte del movimento, quindi non stiamo parlando della sinistra istituzionale o paraistituzionale, che a me neanche, cioè che proprio non mi interessa, non voglio neanche chiamarla sinistra, neanche, non prendo neanche in considerazione, è proprio quella che vuole essere, vorrebbe essere la sinistra di classe, che invece di essere propositiva rispetto a questo tipo di cose, comincia a parlare anche lei di dittatura, comincia a parlare anche lei di errori, comincia a parlare troppi passi avanti, troppi passi indietro, così no, colà no, cioè è un atteggiamento distruttivo nei confronti di tutti gli esperimenti che si fanno per uscire da qui, che invece dovrebbero essere salvaguardati e comunque aiutati, no? E poi c'è questo atteggiamento in politica internazionale che veramente a me mi lascia allibita, che è quello del né, cioè né con una parte né con l'altra, tanto sono tutti imperialisti, e in questo modo non distinguendo l'aggressore dall'aggredito, perché qui è chiaro, noi siamo in una fase imperialista e il mondo imperialista, siamo infilati in una economia di tipo imperialista, quindi non parlare di paesi che non sono imperialisti, che sono imperialisti, cioè non ha senso. Noi siamo infilati in questo tipo di impostazione economico-sociale, così è la fase capitalista che stiamo attraversando, però bisogna distinguere tra chi è all'attacco, chi porta avanti politiche di aggressione e chi invece le subisce. chi cerca disperatamente di opporsi in un modo, nell'altro, nell'altro ancora, e chi invece mette in atto tutti i meccanismi di destabilizzazione. Quindi la politica del né e né che porta avanti tanta sinistra di movimento per me è devastante. Direi che anche la sinistra di movimento, parlando così senza fare nomi eccetera, nella politica estera poi di svarioni ne ha presi tanti, perché tu hai ricordato giustamente tutto questo questo snobismo rispetto all'esperienza ad esempio venezuelana, e prima era quella di Cuba, sì. Come appunto se non fossero esperienze valorosissime che qui ci sogniamo, che qui non mi risulta che siamo riusciti a fare la rivoluzione. E quindi da un lato questo, e dall'altro poi magari appunto si vedono rivoluzionari laddove non ci sono. Quindi il paradosso è che dove ci sono esperienze rivoluzionarie tu le critichi, perché non lo so per quale ragione, perché appunto non lo so se è per frustrazione, perché qua non siamo riusciti, non lo so, e invece dove ci sono esperienze che rivoluzionarie non sono, ma si rivelano poi, come vediamo il caso della Libia, della Siria, dell'Ucraina, esperienze di rivolte non rivoluzionarie, anzi reazionarie, tu, non dico tu Elisabetta ovviamente, sì, ma parliamo di questa sinistra, di certe parti della sinistra, tra un po' fanno appunto le brigate di appoggio, salvo poi mettersi a tacere quando si viene fuori di che gentaglia si stava parlando. Certo. E non dimentichiamo che cosa si diceva dei bravi rivoluzionari libici. Ecco, esatto. Allora, uno, è chiaro che si possono prendere anche delle cantonate, nessuno è perfetto, quindi per carità, una si pone dei problemi, può prendere anche dalle cantonate. Però se si vuole, o se abbiamo l'obiettivo e la spinta ideale di uscire da qua, perché è una necessità, bisognerebbe ritornare sui passi che si è percorsi e riflettere anche su quello che è stato detto e che è stato fatto in quei contesti, perché per esempio in Libia sono state dette, sono state fatte delle cose che su cui bisognerebbe riflettere assai e pubblicamente dichiarare l'errore che è stato fatto, e questo invece non viene fatto, viene ficcata la testa sotto la sabbia, ed è, per me è molto grave, perché dipende dall'obiettivo che uno ha quando si pone il problema di fare, diciamo, delle azioni, di parlare, di scrivere, di darsi da fare. Ed è quello di uscire da questa società che è un disastro assoluto, è un modello economico devastante, no? Cioè, se uno ha l'obiettivo, ha questo tipo di obiettivo, dovrebbe anche porsi il problema di riflettere e di tornare anche sui propri passi se ha sbagliato, no? A farebbe un segno di onestà intellettuale. Comunque, quello che mi piacerebbe anche è che si creasse come un asse, un'alleanza un po', tra virgolette, sgambano, non so come dire, tra delle esperienze anche statuali che cercano di andare appunto in questa direzione del cambiamento, ed esperienze che qua sono concrete sul territorio, effettive esperienze economiche, socio-economiche, le quali però non hanno una vocazione internazionale o internazionalista, e quindi è un peccato, perché non si parlano queste due realtà che invece magari avrebbero moltissimo da dire. Da dirsi, certo. L'ho notato molto nel caso appunto degli esperimenti che fanno in Venezuela a livello appunto di comunas, ma con l'aiuto anche del governo, e certe realtà qui che senza l'aiuto del governo vanno nella stessa direzione, certo. Ma non si conoscono, gli uni non sanno degli altri, ed è un peccato perché sarebbero complementari, certo, no? E quindi questo è un altro limite della sinistra che si interessa di questioni internazionali e di paesi, non sapere poi che cosa di alternativo è nato già in Italia e magari non lavora a livello internazionale. Non credo, è un vero peccato questo. Certo. No, anche perché non è, cioè, non è una critica quella che ho cominciato a mettere sul tappeto una critica fine a se stessa, cioè è dettata dal desiderio di non buttare alle ortiche le lotte, la fatica, i militanti, perché anche i militanti sono preziosi, voglio dire, no? Per cui è un tentativo di ricondurre a unità quello che succede qua, quello che succede in altre situazioni nel mondo, no? Per cui riportare il tutto a una dimensione costruttiva. Io mi ricordo, sicuramente te lo ricorderai anche tu, 2 anni fa, quando abbiamo fatto l'8 marzo al Ponte di Ferro, che c'eri anche tu, ti ricordi? Certo che Ecco. ricordo, certo. Quella volta noi volevamo mettere sul tappeto i temi della politica internazionale. E quando tu hai cominciato a parlare del Venezuela, in difesa del Venezuela, ci è stato rimproverato che è uno Stato-nazione. Allora, io quella volta sono rimasta colpita da questa cosa, perché? Perché è come se lo strumento, cioè nessuno difende lo Stato-nazione come qualcosa di particolarmente riuscito o non riuscito o non sa che cos'è lo Stato-nazione. Il problema è che in questo momento il neoliberismo attacca in maniera spietata gli Stati-nazione, li vuole distruggere perché ha in testa tutta una balcanizzazione dei territori, per cui il potere economico poi ha una gestione diversa dei vari territori, quello che poi in piccolo stanno facendo, vorrebbero fare in Medio Oriente adesso, no? E quindi prendersela con, per esempio, il Venezuela solo perché è uno Stato-nazione, mi ha colpito molto, mi ha destabilizzato, devo dirti la verità. Sì, è stato triste, è stato triste, sì, anche perché appunto l'alternativa a questi stati-nazione non per adesso è abbastanza tragica e appunto invece di avere una forza che se non altro è espressa elettoralmente, tutto hai dei potentati economici fanno quello che vogliono, oppure invece hai di questi non vengono attaccati, degli stati-nazione che sono obbedienti, molto obbedienti Sì, in rispetto effetti. all'ordine costituito, e quelli non vengono attaccati. No, no, in effetti la discriminante tra quelli che sono in linea con gli interessi delle multinazionali anglo-americane e quelli che sono asimmetrici. In effetti questa, hai ragione tu, hai cominciato così e in effetti è vero, è questa, il discrimine è questo. Senti, noi ti ringraziamo tantissimo di questa Grazie a voi, chiacchierata, grazie a voi. perché magari si riuscisse a farne di queste chiacchierate, perché più una parla e tira fuori i problemi, più si riesce a trovare una via di fuga. Io ormai la chiamo via di fuga, neanche via d'uscita. E quindi ti ringraziamo tantissimo e speriamo di sentirci al più presto. Grazie Sì, grazie a tantissimo, voi, grazie a Marinelle. voi. Ciao, Veronica. Grazie. Grazie.